At approximately 9:30 a.m., Afghan and coalition forces once again defeated an attempt by the insurgents to push back the progress of the Afghan people and their security forces and the government and the progress that they're making in Afghanistan. John Allen, si aggiunge un nuovo personaggio al cast dello scandalo David Petraeus. John Allen, il comandante delle truppe americane in Afghanistan. Ebbene, il colpo di scena che va a infittire ulteriormente questo misterioso caso, un po' di sesso, un po' di documenti riservati, di inchieste dell'FBI sulla CIA, di straordinaria turbolenza, devo dire, sulle forze armate americane e sull'amministrazione in genere. Insomma, abbiamo appreso ieri che John Allen era anche lui coinvolto, non possiamo chiamarlo triangolo perché ormai sono quattro persone, diciamo nel quadrilatero che coinvolgeva David Petraeus, Jill Kelly, la donna che da Tampa fece scattare l'inchiesta dell'FBI, e Paula Broadwell, l'amante di David Petraeus, del capo della CIA, dell'ex capo delle forze americane in Iran, in Afghanistan, uno dei grandi eroi militari americani del nostro tempo. Ebbene, cosa ha fatto John Allen? Abbiamo appreso che ha avuto delle corrispondenze intense con Jill Kelly per due anni, dal 2010 al 2012, si conoscevano molto bene e la cosa strabiliante è che hanno avuto una corrispondenza tra le 20 e le 30.000 pagine di email.